reportage. Camminare l'Europa. Gli itinerari che fanno l'Unione. Di Silvia Bernardi. Camminare, camminare, camminare. Un passo dopo l'altro sulle antiche vie che nei secoli passati hanno visto transitare i pellegrini. Sono lontani i tempi in cui percorrere migliaia di chilometri a piedi era una sfida da temerari senza alcuna garanzia di riuscita, ma gli itinerari culturali europei oggi vivono un nuovo momento di gloria. Collegano città, paesi e comunità rurali in tutto il continente e presentano l'Europa come un'unica destinazione turistica. Dalla via Francigena a quella della Seta, passando per la via delle città termali, è l'Europa che cammina. Percorriamo la storia e l'evoluzione di questi itinerari che uniscono l'Europa nel nome della cultura e del turismo sostenibile con Alberto D'Alessandro, già direttore dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa. Il programma degli itinerari culturali europei nasce nel 1987 e il Consiglio d'Europa vuole lanciare con questo programma un messaggio molto importante di unità e di cittadinanza comune. Il primo itinerario che viene labellizzato nell'87 è il Cammino di Santiago di Compostela. In quegli anni l'Europa era ancora divisa da un muro, divisa in due blocchi, e si sentiva quindi l'esigenza nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ricordo è questa organizzazione internazionale importantissima che oggi riunisce 47 paesi, praticamente tutta l'Europa continentale, l'idea di fondo era quella innanzitutto di lavorare su un percorso comune. Ed è stato scelto un tema molto importante per l'Europa di ieri e di oggi, che è proprio il tema del pellegrinaggio. Tutti noi oggi conosciamo in Italia l'importante itinerario della Via Francigena. La Via Francigena è stata labellizzata dal Consiglio d'Europa nel 1994 intorno a questo tema importante del pellegrinaggio, che possiamo dire è stata in qualche modo la prima forma di turismo europeo. Santiago di Compostela rappresentava quindi, così come la Via Francigena, l'idea di che percorrendo e camminando lungo questi percorsi europei si varcassero i confini, si conoscessero le località, si frequentassero delle destinazioni spesso anche sconosciute, incontrando le persone, incontrando la gente e condividendo quindi un patrimonio comune che ci appartiene a tutti noi come cittadini europei e in qualche modo imparando anche cos'è l'Europa lungo questo percorso. Quanti sono e come sono gli itinerari culturali? Il programma del Consiglio d'Europa oggi conta 29 itinerari culturali, quindi dall'87 ad oggi ci sono stati tutta una serie di itinerari che sono stati presentati alla valutazione del Consiglio d'Europa, che hanno ricevuto il label europeo, ed oggi appunto contiamo questi 29 itinerari che riguardano dei temi più svariati. Abbiamo il tema dei personaggi europei, abbiamo il tema del patrimonio religioso ecclesiastico, così come abbiamo il tema dell'architettura, del patrimonio culturale in quanto tale, attraverso delle reti culturali come quella dell'Art Nouveau o come quella delle città termali. L'elemento fondamentale che è alla base di questi itinerari è un tema comune. Bisogna che gli itinerari abbiano un forte tema europeo, una dimensione europea, siano composti da delle reti internazionali che tra di loro si organizzino in un coordinamento e che presentino poi la loro proposta di itinerario al Consiglio d'Europa. E appunto il dato fondamentale è che ci sia una storia da raccontare, una storia di un percorso europeo, quindi di un grande movimento culturale che è stato condiviso tra tutti i popoli europei al di là dei confini e delle frontiere, come ad esempio l'esempio dell'Art Nouveau e del Liberty, è un caso molto eclatante, così come raccontare la storia di un grande personaggio che ha contribuito alla crescita culturale del nostro continente. La Via Francigena è la più antica di queste vie che collegano l'Europa e allo stesso tempo è quella più famosa. Su quella via si è rimessa in cammino l'Europa intera e nei prossimi mesi, con l'inizio del Giubileo, sarà ancora più viva. Ne parliamo con Luca Bruschi, coordinatore dei progetti europei della Via Francigena dell'Associazione Europea Via Francigene. La Via Francigena è un itinerario culturale del Consiglio d'Europa e dentro la parola culturale ci sta la sua accezione religiosa, spirituale, turistica, legata alla sostenibilità e legata allo sviluppo dei territori. E è un cammino che sta facendo mettere appunto in marcia, in cammino, migliaia di pellegrini nella parte inglese, svizzera, francese e italiana, da Canterbury fino a Roma per 2500 chilometri. E questa invasione pacifica di camminatori, di pellegrini, sarà ancora più esplosiva nel senso positivo del termine il prossimo anno, perché con il Giubileo ci aspettiamo veramente migliaia di pellegrini che vorranno arrivare a Roma e lo faranno a piedi, in bicicletta, così come il Papa ha suggerito loro. E è un itinerario che sta unendo i territori, che sta unendo i comuni, che sta mettendo in rete delle istituzioni, sta facendo lavorare l'università, le associazioni, sta offrendo dei nuovi servizi a disposizione dei camminatori e dei pellegrini. Ed è un progetto che sta creando anche nuove opportunità di lavoro per i giovani, ripeto, sempre tornando sul tema dei servizi che si offrono ai camminatori. La Via Francigena quindi è un progetto in primis di dialogo interculturale, di tolleranza, di pace, di dialogo interreligioso. Ed è un progetto che ci sta facendo riappropriare di una di quelle che sono le cose più importanti di questo tempo, cioè appunto il tempo per noi stessi, per l'incontro e per scoprire il territorio che ci sta incontro. E quindi è un progetto nella sua dimensione europea che sta unendo l'Italia e sta unendo l'Europa in direzione dal nord al Mediterraneo, come dice Jacques Le Goff, è un ponte tra l'Europa anglosassone e l'Europa mediterranea. La Commissione europea dice che l'Europa deve proporre un'offerta turistica sostenibile e di qualità, puntando sui propri vantaggi comparativi, in particolare sulle diversità dei suoi paesaggi e sul suo straordinario patrimonio culturale. La creazione di itinerari culturali europei attraverso regioni o paesi diversi è stato un buon punto di partenza per promuovere la varietà e la complessità dell'offerta di turismo culturale in Europa, come conferma Alberto D'Alessandro. Dunque, nel 2010 la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno lanciato il tema degli itinerari culturali, mettendolo alle priorità della strategia turistica dell'Unione europea, attraverso una raccomandazione che è stata fortemente voluta dall'allora commissario Tajani e supportato nel Parlamento europeo dall'attuale presidente della Commissione Cultura Silvia Costa. Si è deciso che l'itinerario culturale in quanto tale rappresentasse un modello di sviluppo per l'Europa. Perché un modello di sviluppo? Perché l'itinerario culturale incarna tutta una serie di elementi positivi per il turismo di domani. Oggi l'Europa ha di fronte una sfida importante. Rimane certamente la prima destinazione turistica mondiale, ma nel contesto di una globalizzazione crescente e anche di un aumento anche importante, imponente, a livello demografico di tipo mondiale, vediamo come spesso le nostre città d'arte, penso a Venezia, penso a Firenze e Roma, subiscono un impatto molto forte di turisti. L'itinerario culturale non solo promuove un tema europeo, quindi favorisce in qualche modo la crescita del brand dell'Unione Europea e dell'Europa in quanto tale, ma fa anche una proposta di un turismo più intelligente, di un turismo di qualità, di un turismo responsabile, di un turismo quindi più rispettoso in qualche modo del patrimonio culturale, più rispettoso anche degli aspetti ambientali, quindi dell'ambiente, possiamo dire che in quanto tale è un turismo in qualche modo ecosostenibile. Oltretutto presenta un vantaggio che si fa turismo culturale e quindi si va sugli itinerari culturali, sui percorsi anche in tutte le stagioni dell'anno. E quindi c'è in qualche modo si contribuisce alla destagionalizzazione del turismo e poi si va in destinazioni spesso anche di grande fascino ma sconosciute, quindi piccole destinazioni a volte periferiche, andando a scoprire nella profondità i territori delle regioni, i territori europei, e quindi da questo punto di vista è un modo molto bello di scoprire il ricchissimo patrimonio culturale che l'Europa offre, facendo un turismo molto più responsabile e molto più intelligente. Se la Via Francigena è il primo itinerario culturale europeo, quello dedicato alle città termali è l'ultimo nato. Si chiama ETTA ed è una rete europea che riunisce città termali con un significativo patrimonio architettonico e con le proprietà delle loro acque termali riconosciute a livello europeo e mondiale. Ce ne parla la responsabile Franca Roso, assessore del comune di Acquiterme. E la strada europea delle città termali storiche ripercorre i luoghi in cui si è sviluppata la cultura termale europea. Il percorso collega il patrimonio culturale e storico delle città termali e promuove le qualità delle loro acque. E l'associazione ha come obiettivo quello di rafforzare le città termali e i centri benessere a livello transeuropeo, e anche effettuare uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra le amministrazioni e gli operatori culturali e socio-economici delle città termali. Inoltre ha anche come scopo quello di valorizzare e di salvaguardare il patrimonio termale architettonico e artistico di queste città. Penso che far parte di questa rete, quindi far parte diretta, rappresenti per queste città termali un'occasione davvero importante per avere un filo diretto con le istituzioni europee e che sia una grande opportunità di scambio di progettualità fra queste città termali, che potranno sfruttare i vantaggi di questa rete e quindi avere la possibilità di poter partecipare a questi forum internazionali ed essere accreditate come partner all'interno di questi bandi europei. Abbiamo visto il primo e l'ultimo nato, ora non ci resta che vedere cosa c'è tra le nuove proposte. D'Alessandro, quali saranno i nuovi itinerari culturali europei? Tra le nuove proposte in elaborazione c'è l'itinerario europeo della Via della Seta. Questo è un itinerario affascinante che ripercorre ovviamente anche in buona parte il percorso che ha fatto Marco Polo verso la Cina. La Via della Seta, vorrei ricordare, è un progetto già conosciuto, un progetto promosso soprattutto dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, sostenuto anche dall'UNESCO, ma che nella parte europea non ha avuto ad oggi un grande sviluppo. E quindi dalla sede di Venezia del Consiglio d'Europa stiamo lavorando per supportare la crescita di un partenariato, di un network che coinvolga la città di Venezia e quindi la regione Veneto, tutto il sistema dei paesi lungo l'Adriatico e il Mediterraneo, la Turchia, fino all'Azerbaigian, che ricordo è uno dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa, e quindi l'idea di accrescere questo itinerario, che è un itinerario molto importante per gli obiettivi che si pone, certamente una grande via commerciale di comunicazione, ma poi è soprattutto una via di dialogo. Il dialogo, ricordiamo, è uno dei tratti, degli elementi fondamentali che sono alla base, all'origine del programma di itinerari culturali, e quindi la tratta europea della Via della Seta, che viene inserita nel contesto più ampio del progetto dell'UNESCO e dell'Organizzazione Mondiale del Turismo della Via della Seta, diventa un elemento strategico di diplomazia culturale e di dialogo nei rapporti tra l'Europa e il Mediterraneo e tra l'Europa e l'Asia. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.